Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Addio alle armi di Ernest Hemingway. Traduzione di Fernanda Pivano. Mi svegliò l'indomani mattina la batteria del giardino vicino e vidi il sole che entrava dalla finestra e mi alzai dal letto. Andai alla finestra e guardai fuori. I viali inghiaiati erano umidi e l'erba era bagnata di rugiada. La batteria sparò due volte e ogni volta l'aria giunse come un colpo e fece tremare i vetri e mi fece sventolare i risvolti del pigiama. Non riuscivo a vedere i cannoni, ma evidentemente sparavano proprio al di sopra di noi. Era un fastidio averli da quelle parti, ma per fortuna non erano più grossi. Mentre guardavo in giardino udii un'autocarretta che partiva sulla strada. Mi vestii, scesi a pian terreno, presi il caffè in cucina e andai nella rimessa. 10 macchine erano allineate fianco a fianco sotto la lunga tettoia. Erano ambulanze dal tetto pesante e dal muso schiacciato, grigie e a forma di furgoni. I meccanici stavano lavorando a una di esse in cortile. Altre erano in montagna, ai posti di medicazione. «Riusciranno a bombardare questa batteria?» chiese uno dei meccanici. «No, signor tenente, è protetta dalla collina. Come vanno le cose?» «Così così. Questa macchina non va, ma le altre camminano.» Smise di lavorare e sorrise. «È stato in licenza?» «Sì.» Si pulì le mani nel maglione e rise silenziosamente. «Se l'è passata bene?» Anche gli altri sorridevano. «Benissimo», risposi. «Che cos'è successo a questa macchina?» «Non va. Ne ha sempre una.» «Adesso che cos'ha?» «Segmenti.» Li lasciai al lavoro e la macchina aveva un aspetto triste e desolante, col motore aperto e i pezzi sparsi sul banco da lavoro, e andai sotto la tettoia a guardare le macchine una per una. Erano abbastanza pulite, alcune lavate da poco, altre polverose. Guardai con cura i copertoni, cercando tagli o strappi di pietre. Tutto pareva in buono stato. Evidentemente non cambiava niente che io ci fossi o non ci fossi a tenere d'occhio le cose. Mi ero figurato che lo stato delle macchine, l'ottenere o meno il necessario, il buon funzionamento del trasporto dei feriti e malati dai posti di medicazione, calandoli dalle montagne e centri di sanità e poi smistandoli agli ospedaletti segnati sulla loro bassa di passaggio, dipendesse per buona parte da me. Evidentemente, che io ci fossi o no, non importava nulla. «Ci sono state difficoltà per i pezzi di ricambio?» chiesi al sergente meccanico. «No, signor tenente. Dov'è adesso il deposito benzina?» «Allo stesso posto.» «Bene», dissi. E ritornai in casa e bevvi un'altra tazza di caffè alla tavola della mensa. Il caffè era grigio pallido e dolce di latte condensato. Fuori della finestra era una bella mattina di primavera. Sentivo un inizio di aridità al naso, preannuncio che la giornata più tardi sarebbe diventata calda. Quel giorno visitai i posti di raccolta in montagna e ritornai in città nel pomeriggio tardi. Insomma, tutto pareva andare meglio quando io non c'ero. Mi dissero che l'offensiva stava per ricominciare. La divisione cui eravamo assegnati stava per attaccare a monte del fiume e il maggiore mi disse che avrei dovuto occuparmi dei posti di raccolta per il momento dell'attacco. L'attacco doveva attraversare il fiume sopra la gola stretta e allargarsi sulla collina. I posti di raccolta per le ambulanze avrebbero dovuto essere il più possibile vicini al fiume, restando al riparo. Era una di quelle cose che danno una falsa sensazione di guerra. Ero pieno di polvere e sudicio e salii in camera per lavarmi. Rinaldi era seduto sul letto con una copia della grammatica inglese di Hugo. Era già pronto, aveva gli stivali neri e i capelli lucidi. «Splendido», disse quando mi vide. «Vieni con me a trovare la Barclay.» «No.» «Sì, mi farai il piacere di venire e di farmi fare bella figura con lei.» «Bene, aspetta che mi pulisca.» «Lavati e vieni come sei.» Mi lavai, mi spazzolai i capelli e ci avviamo. «Ah, aspetta un minuto», Rinaldi disse. «Si potrebbe anche bere qualcosa.» Aprì la cassetta e tirò fuori una bottiglia. «Non strega», dissi. «No, grappa.» «Bene.» Versò due bicchieri e li toccammo con l'indice alzato. La grappa era molto forte. Un altro? Bene, dissi. Bevemmo la seconda grappa, Rinaldi mise via la bottiglia e scendemmo da basso. Faceva caldo a camminare per la città, ma il sole incominciava a tramontare e si stava molto bene. L'ospedale inglese era una grande villa costruita dai tedeschi prima della guerra. La Barclay era in giardino. Con lei c'era un'altra infermiera. Vedemmo le loro uniformi bianche attraverso gli alberi e ci avviammo verso di loro. Rinaldi salutò. Salutai anch'io, ma con più calma. «Come sta?» disse la Barclay. «Lei non è italiano, vero?» «Oh no!» Rinaldi chiacchierava con l'altra infermiera. Stavano ridendo. «Che strana cosa, essere nell'esercito italiano. Non è proprio l'esercito, è solo la sanità. Però è ben strano. Perché ci è venuto?» «Non lo so», dissi. «Non sempre c'è una spiegazione per quello che si fa. Oh, non c'è. Sono stata abituata a pensare che ci sia. Ma è una bella cosa. Dobbiamo continuare a chiacchierare a questo modo?» «No», dissi. «Meno male, no?» «Che cos'è quel bastone?» chiesi. La Barclay era piuttosto alta. Indossava quella che mi pareva un uniforme da infermiera. Era bionda e aveva la pelle abbronzata e gli occhi grigi. Mi parve bellissima. Giocherellava con un sottile bastone di canna che pareva un frustino in miniatura, legato in cuoio. Era di un ragazzo che fu ucciso l'anno scorso. Mi dispiace molto. Era molto simpatico. Dovevamo sposarci e fu ucciso sulla Somme. Brutto posto. C'eravate? No. Me l'hanno detto, disse. Qui una guerra di quel genere non l'hanno mai vista. Mi mandarono il bastoncino. Me lo mandò sua madre. Glielo avevano restituito con le sue cose. Siete stati fidanzati molto tempo? 8 anni. Siamo cresciuti insieme. E perché non vi siete sposati? Non lo so, disse. Sono stata stupida a non farlo. Almeno gli avrei dato questo. Ma pensavo che non sarebbe stato un bene per lui. Capisco. È mai stato innamorato? No, dissi. Sedemmo su una panchina e la guardai. «Che bei capelli ha», dissi. «Le piacciono? Molto. Volevo tagliarmeli tutti quando è morto. No, volevo fare qualcosa per lui. Vede, non mi importava dell'altra cosa e lui avrebbe potuto avere tutto. Ma avrebbe potuto avere qualunque cosa desiderasse, se avessi saputo. L'avrei sposato o qualunque cosa. Ora lo so bene. Ma allora lui vuole andare in guerra e io non lo sapevo». Non seppi che cosa dire. Non sapevo nulla allora. Pensavo che per lui sarebbe stato peggio. Pensavo che forse non l'avrebbe sopportato e poi naturalmente l'hanno ucciso e così è finito tutto. Chi lo sa? Oh sì, disse. Così è finito tutto. Guardammo Rinaldi che chiacchierava con l'altra infermiera. Come si chiama? Ferguson. Helen Ferguson. Il vostro amico è medico, vero? Sì, è molto bravo. Magnifico. È difficile trovarne uno bravo così vicino al fronte. Qui siamo vicini al fronte, vero? Abbastanza. È un fronte stupido, disse, ma è molto bello. Si sta per attaccare? Sì. Allora avremo lavoro. Non c'è lavoro adesso. È da molto che fa l'infermiera? Dalla fine del 15. Partì lui. Ricordo che avevo la stupida idea che potesse capitare nell'ospedale dove ero io. Ferito di sciabola, magari con una benda intorno al capo o con la spalla attraversata da una pallottola, qualcosa di pittoresco. Questo è un fronte pittoresco, dissi. Sì, disse. La gente non riesce a rendersi conto come sia in Francia. Se ci riuscisse, non si potrebbe andare avanti. Non fu ferito di sciabola. Andò in tanti pezzi. Non dissi nulla. Crede che continuerà sempre? No. Che cosa la farà cessare? Cederà da qualche parte? Noi cederemo. Cederemo in Francia. Non si può continuare a fare cose come nella Somma e non cedere. Qui non cederanno, dissi. Crede? No. Mi è andata molto bene l'estate scorsa. Possono cedere, dissi. Chiunque può cedere. Anche i tedeschi. No, disse, non credo. Andammo incontro a Rinaldi alla Ferguson. Ama l'Italia? Rinaldi chiese alla Ferguson in inglese. Quite well. No, understand. Rinaldi scosse il capo. Abbastanza bene, tradussi. Scosse il capo. Così non va. Ama l'Inghilterra? Non troppo. Sa, sono scozzese. Rinaldi mi guardò confuso. È scozzese, perciò ama più la Scozia dell'Inghilterra, disse in italiano. Ma la Scozia è Inghilterra, tradussi questo alla Ferguson. Pas encore, disse la Ferguson. Davvero? Mai. Non amiamo gli inglesi. Non ama gli inglesi? Non ama Miss Barclay? Oh, è diverso, non deve prendere tutto così alla lettera. Dopo un po' li salutammo e ce ne andammo. Ritornando a casa, Rinaldi disse: la Barclay preferisce te a me. È evidentissimo, ma la scozzesina è molto carina. Molto, dissi. Non le avevo fatto caso. Ti piace? No, disse Rinaldi. La giornata era stata calda. Ero stato a monte del fiume fino alla testa di Ponte di Plava. Lì doveva incominciare l'offensiva. Era stato impossibile avanzare sull'altra riva l'anno prima, perché c'era solo una strada che conduceva dal passo al ponte di Barche ed era sotto il tiro delle mitragliatrici e delle artiglierie per circa un miglio. Non era neanche abbastanza larga da permettere il passaggio del carriaggio per un'offensiva e gli austriaci potevano farne un macello. Ma gli italiani avevano attraversato e si erano attestati sull'altra riva, occupando un paio di chilometri della riva austriaca del fiume. Era un brutto posto e gli austriaci non avrebbero dovuto lasciarglielo occupare. Penso che fosse reciproca tolleranza, perché gli austriaci avevano ancora una testa di ponte più a valle. Le trincee austriache erano in cima alla collina, a pochi metri dalle linee italiane. Una volta lì c'era stato un villaggio, ma era tutto macerie. C'erano i resti di una stazione ferroviaria e un ponte in muratura crollato che non si poteva né riparare né usare perché era completamente scoperto. Scesi lungo la stradicciola verso il fiume, lasciai la macchina al posto di medicazione ai piedi della collina, attraversai il ponte di Barche che era riparato dal fianco della montagna e andai lungo le trincee del villaggio distrutto e sull'orlo del pendio. Erano tutti nei ricoveri. C'erano le rastrelliere dei razzi pronti a essere tirati per chiedere l'aiuto dell'artiglieria o per fare segnalazioni nel caso le linee telefoniche venissero tagliate. C'era silenzio, calore e sporcizia. Bevi qualcosa in un ricovero con un capitano che conoscevo e riattraversai il ponte. Stava per essere finita una nuova strada, larga, che avrebbe varcato la montagna e sarebbe scesa a zigzag al ponte. Quando questa fosse finita sarebbe incominciata l'offensiva. Scendeva attraverso la foresta a curve strette. Il piano era di portare giù tutto per la nuova strada e fare passare gli autocarri vuoti, le carrette, le ambulanze cariche e tutto il traffico di ritorno per la vecchia stradicciola. Il posto di medicazione era sulla riva austriaca del fiume, sotto il piano della collina, e i portaferiti avrebbero trasportato le barelle attraverso il ponte di Barche. Così sarebbe andata quando l'offensiva fosse incominciata. Per quanto potevo capirne io, l'ultimo chilometro e mezzo o quasi della strada nuova, dove incominciava a pianeggiare, avrebbe potuto essere bombardata ripetutamente dagli austriaci. Pareva che potesse diventare un pasticcio. Ma trovai un punto in cui si potevano mettere a riparo le macchine dopo aver superato l'ultimo tratto cattivo e aspettare i feriti per portarli al di là del ponte di Barche. Mi sarebbe piaciuto passare sulla strada nuova, ma non era ancora finita. Pareva larga e ben fatta, con una buona pendenza. E le curve facevano una grande impressione vederle attraverso gli spiragli della foresta sul fianco della montagna. Le macchine sarebbero andate benissimo coi loro buoni freni meccanici e comunque scendendo non sarebbero state cariche. Risalii per la stradicciola. Due carabinieri fermarono la macchina. Era caduta una granata e mentre aspettavamo ne caddero altre tre sulla strada. Erano da 77 e arrivarono con uno sferzante spostamento d'aria, un secco scoppio luminoso e un lampo e poi fumo grigio che si alzava in mezzo alla strada. I carabinieri ci fecero segno di avanzare. Passando dove erano cadute le granate, evitai le buche che si erano formate e annusai l'alto esplosivo e l'odore di terra e pietra bruciata e della silice frantumata di fresco. Ritornai a Gorizia nella nostra villa e, come ho detto, andai a trovare la Barclay, che era di servizio. A pranzo mangiai molto in fretta e andai alla villa dove gli inglesi avevano il loro ospedale. Era proprio molto grande e bella e c'erano begli alberi nel parco. La Barclay era seduta su una panchina in giardino. Era con la Ferguson. Parvero lieta di vedermi. Dopo un momento la Ferguson si scusò e se ne andò. «Vi lascio soli», disse. «Starete benissimo anche senza di me». «No, non te ne andare, Helen», disse la Barclay. «Devo andare davvero. Ho da scrivere qualche lettera». «Buonanotte», dissi. «Buonanotte, Mr. Henry. Non scriva nulla che possa seccare il censore. Non abbia timore. Dirò solo come è bello il posto dove siamo e come sono bravi gli italiani. Così le daranno una medaglia. Sarà carino. Buonanotte, Catherine». «Ti raggiungo tra un momento», disse la Barclay. La Ferguson si allontanò nel buio. «È simpatica», dissi. «Oh sì, è molto simpatica. È infermiera. E lei non lo è, o no? Io sono qualcosa che si chiama VAD. Lavoriamo molto, ma nessuno si fida di noi». «Perché no? Non si fidano di noi quando non c'è niente da fare. Quando c'è lavoro sul serio, si fidano». «Che differenza c'è?» «Un'infermiera è come un medico. Ci vuole molto tempo per diventarlo. Assistenti, volontari, dottori, si diventa più in fretta». «Capisco. Gli italiani non volevano donne così vicino al fronte, così abbiamo tutte un regolamento particolare. Non possiamo uscire. Però io posso venire qui. Oh sì, non siamo in clausura. Lasciamo stare la guerra. È molto difficile, non c'è posto dove metterla. Lasciamola stare lo stesso». «Bene». Ci guardammo nel buio. Pensavo che era proprio bella e le presi una mano. Lei me la lasciò prendere e io la tenni e le cinsi la vita col braccio. «No», disse. Tenne il braccio dov'era. «Perché no?» «No, sì», dissi. «Per favore». Mi piegai verso di lei nel buio per baciarla e fu un secco lampo bruciante. Mi aveva dato uno schiaffo nella faccia, la sua mano mi aveva colpito il naso e gli occhi mi lacrimavano di riflesso. «Mi dispiace tanto», disse. Sentii che facevo un certo progresso. «Ha pienamente ragione. Sono terribilmente spiacente», disse, «ma non riuscivo a sopportare l'aria da libera uscita di infermiera di tutto questo. Non volevo farle male». «Le ho fatto male, vero?» Mi guardava nell'oscurità. Ero irritato, ma sicuro, e vedevo tutto davanti a me come le mosse di una partita a scacchi. «Oh, ha fatto benissimo», dissi. «Non importa, poverino. Vede, ho condotto una così strana vita e non ho mai parlato inglese. E poi lei è così bella». La guardai. «Non è necessario che dica un mucchio di sciocchezze. Le ho detto che sono spiacente. Andiamo avanti». «Sì», dissi, «e non abbiamo più da parlare della guerra». Rise. Era la prima volta che la sentivo ridere. Le osservai il viso. «Lei è molto caro», disse. «No, no, non è vero». «Sì, sei caro. Vorrei baciarti, se non ti dispiace». La guardai negli occhi e la cinsi con il braccio come prima. E la baciai. La baciai con violenza, la strinsi forte e cercai di schiuderle le labbra. Erano strette, ero ancora irritato e mentre la stringevo a un tratto la sentii tremare. La tenni stretta a me e le sentii battere il cuore, chiudere le labbra e il capo le si rovesciò sulla mia mano e poi mi piangeva sulla spalla. «Oh, caro», diceva, «sarai buono con me, vero?» «Che diavolo!» pensai. Le accarezzai i capelli e le diedi dei colpetti sulla spalla. Lei continuava a piangere. «Sarai buono, vero?» Alzò lo sguardo su di me. «Perché la nostra sarà una vita strana». Dopo un po' l'accompagnai alla porta della villa e lei entrò e io ritornai a casa. Arrivato alla villa salii in camera. Rinaldi era sdraiato sul letto. Mi guardò. «Così fai progressi con la Barclay?» «Siamo amici». «Ma quell'aria divertente dei cani in calore». Non capii le parole. «Di che cosa?» mi spiegò. «Tu», dissi, «hai l'aria divertente di un cane che...» «Basta», disse. «Tra un momento incominceremo a insultarci». Rise. «Buonanotte», dissi. «Buonanotte, cucciolino». Colpii la sua candela col cuscino e andai a letto al buio. Rinaldi raccolse la candela, l'accese e continuò a leggere.